5 e. Ascolta e rispondi. Vi piace la musica? Sì, ci piace tantissimo. Vi piace il vino? Sì, ci piace tantissimo. Vi piace questa città? Sì, ci piace tantissimo. Vi piace viaggiare? Sì, ci piace tantissimo. Vi piacciono questi disegni? No, non ci piacciono per niente. Vi piacciono i gialli? No, non ci piacciono per niente. Vi piacciono i miei amici? No, non ci piacciono per niente. Vi piacciono le mie amiche? No, non ci piacciono per niente.